10.000 km, cioè il nylon c'è di dietro. Sì, ma appunto cos'è? La sole, così, quella lì, come quello se passo col freddo, ma quella. No, questa c'è l'idroguida, l'aria condizionata, va tutto. È un modello, no, non è una grande punto, quella che c'è, non c'è fari quelli lunghi lisci, c'è i fari quelli lunghi però declinati. A punta sono. Sì, a punta lì, dietro. Ma come la punta che avevo io con la celeste? Esatto, bravo. E quella è profonda però. Questi come fanno fare la punta così? No, questa è cinque porte quella è malissima. Ma una bella macchina, amico. Ti ci vuoi fare un aereo che c'è di da dentro, non si è mai bruciato nessuno. Davanti è nuova, nuova, 26.000 km. Mi pare che sia del 2006, boh, 2005, una cosa del genere. Sì, va bene, a voglia, va benissimo. Sotto la parte allora subito. Non è un po' lui, ripresa. Sono riattracco io. Anche io. Ok, va. E per me sono a finire che non devo ascoltare nulla. Vai. Crack, che macchina sta dicendo 26.000 km? E adesso ce l'ho Gianni. È una punto, una nuova gran punto, quella prima della gran punto. Non so, è D, B, D, S, D, D, R. Mi sembra sia 2007-2008. C'ha 26.000 km, questa che abita sopra di me. Cioè, il nylon le sedi di dietro, non si è mai seduto nessuno, 26.000 km. Però ho detto che fino a quando muore non la va nessuno. Ho detto, mi mai, appena quando non ci sei più, allora me la prendo io. Dammi già la coppia delle chiavi. Nuova, nuova, nuova, 26.000 km, avanti già. Oh, la ciaga, la vuoi far muri, battiti i ricorsi, va. Gliel'ho detto, ha detto, ma la vedi questa macchina? No, no, la tengo sino a quando muori. Allora gli ho detto, quando muori dalla me, cioè stai carici da te lo giorno. Ma la cara è? Sì, 70, era una maestra da Giro Unito, 76 mi pare, 75. Ebbè, non conosci nessuno col Covid, gliel'ho presente. Se gli ho detto, se ne vuole dormire la notte, ho detto di no, vai, che non ti vogliono. Poverina, dai, non si augura mai, però 26.000 km, quelle sono colpi di fortuna, se riesci a prezzo, solo che poi trovi la persona che è convinta che va alla Ferrari e dice no, la macchina è nuova, magari vale 1.000 euro, ne vuole 3.000. Ah, ma cosa, se dovesse davvero, non c'è mai nessuno a darla. Cosa? Due nipoti, diciamo, sono in continente, le stanno anche bene, non hanno bisogno di questa macchina. Ah, me la vedo a me, non ti preoccupare. Ti sto dicendo io, tutte le volte la prendo, a volte dice, cara mia compagna, devo andare, però mia, andiamo con la macchina mia, così la fai camminare, cazzo. A tappeto non cammina, c'è una macchina di cantelliarda, e la c'è ancora in rodaggio. Vai già. Ehi, sono la Brittella. Ehi. 9, quasi più 20. Ripreso, ripreso, almeno te la puoi far dare, usare e poi dici, quando riserve per accompagnarla, la accompagni, e intanto ti dà delle due macchine. Chiami Cacabella! Se ti sto dicendo che c'ho anche la coppia delle chiavi, allora hai capito. C'ho anche la coppia delle chiavi, non ne ho problemi. Tante volte, vedi che, perché esce poco, ma a volte esce, c'è il cane, no? C'è un upshite. Quando scende giù, a volte, anche l'altra volta mi ha detto, ma la macchina hai preso? Sì, sono andato a prendermi caffè, a farla camminare un po'. E l'ho visto che l'hai messa al contrario, col muso verso il cancello. E così quando esci, fai il retromarcia, non ti scudi l'altra macchina. E che colore è? È claro. Colore oro metallizzato, nuovo, nuovo, nuovo. Cinque porte. Ehi, a cinque porte. Quelle sono macchine, ti ripeto, costano poco, le trovi a buon prezzo e sono macchine che non trovi niente di meglio per in circolazione, perché sono macchine semplici da riparare, i pezzi costano poco, infatti io consiglio sempre prendere quelle macchine, le punto, mille punto, anche le Panda con le quattro sportelli vanno bene, ma se le fanno pagare almeno 3.000 euro se le trovi discrete, a meno che non trovi un rottame, perché la Panda lo stesso è una macchina eccezionale, 600 la sala BG G-Cla è troppo leggerina, se devi spostare eccetera eccetera, non è una macchina sicura, ma appunto è già qualcosa di meglio. Vediamo a Luca del Monte se ci risponde, avanti. Ciao Roberto, una giugata di farla, sono stanco morto. Vai Massimiliano. Ciao Luca, buonasera. Buongiorno Roberto, viaggio lungo, ti muoio la macchina mia, guarda, ti faccio attaccare a un gozo, alla maleccia, lo straccio. Siamo andati al ghetto, va, una maschera da bagno, Massimiliano, oltre alla multipla, c'è anche una maschera da bagno, ma c'è una bellina. Cos'è quella, Toyota? Vai go. Vai go, ma è una bellina, camminami. Cos'è, 1.000 Massimiliano? via, mille, c'ha tutto, va. C'è una stessa ABS, alberghi, chiuso centralizzato, acqua cristalli, tutto c'ha. La fa uguale a Citroen, precisa, però prova a non appoggiarti mai, non ti sbattere mai con quelle macchine, anche più appena ti appoggi fai un bel di danno e costano un bel, è troppo leggerina come macchina, c'ha un bel motore, brillante, consuma poco, però carrozzeria non viene, è troppo economica come macchina. Cos'è, c'è quella che c'ha lì i cristalli dietro a compasso che si aprono? Sì, quella, sono tutte così. Ogni tanto si staccano, lo sai quante me le portano in officina che si scollano quei cristalli? Non si scollano qui, non sai perché? Perché in poche parole l'anno scorso la Toyota mi ha mandato una lettera, sono macchine uscite dal 2008, Bim Bum Bam, c'avevano questo problema, l'ho portata la Toyota, me l'hanno fatto. Sì, quando te le cambiano con i richiami, ma non sono tutte che hanno richiamato, un bel vabbè già costa poco sistemarlo, poi da giù su zetti e incollate, se ti vedi non le staccano il masticcio vecchio, glielo mettono sopra e ne entrano nei litri di acqua, lo sai quante me ne portano, che dice me l'hanno richiamata e poi non tolgono il masticcio vecchio per velocità, li mettono il masticcio nuovo e lo sigillano così, poi se entra leva a coso a fiaschi. E io il giorno che mi gira mi vara, lo si ricordo tutto e rimane chiuso. Tanto non ci siede nessuno da me, io la uso per lavoro quella macchina, mi muovo solo io e buco. No, ma vanno benissimo, l'unico problema è che deve andare solo alla Toyota, quei prezzi ce li ha solo la Toyota e costano un pochettino, mentre con un appunto il Tarraggio, la rossa ciaccarrote, ne trovi di prezzi, è una macchina più commerciale, nel senso ne hanno fatte di più qua in Italia, per cui ti riesci sempre a trovare qualcosa da adattare, ma va bene anche quella, niente da dire. Ok, vediamo se il doppio rumo sta girando la rotatoria o se sei uscito dritto, avanti già. Io sono già vicino alla terrace, vicino alla coppa, e me ne sto andando a casa, dai, il motore tutto e ritorno da casa. Eia, la coppa sei tu, chi porti di più, così ti dà il letto. Io non le faccio pubblicità alla coppa. Eia, ok, vai là. Non sto già di pubblicità alla coppa, luci la concorrenza a voi. Ho lavorato 40 anni alla Scisa, già lo sai, Lupo Scisa. KK, no, ma va bene mica quella di Massimiliano, è veramente una bella macchinetta, ci andate al ghetto noi, con quella macchinetta lì, va bene, poi lui la usa per lavoro, si sposta, è piccolina, non è ingombrante, ma è una Smart, è piccolina, è due, è molto bellina, a me piace fare una macchina a città così, piccola ma insomma con tutti i comfort che servono, oh, quella 600, vabbè. Quando poi è stata messa a posto, la nuova, aria condizionata, idroguida, capito, vetri di cristalli elettrici, per città, io quella la usavo per andare da qua a Sorsomi e basta, poi la usavo in città, non è che andavo fuori, no? Sì, andavo ai punti a Massimiliano, a Ottava, ma non è che andassi io a Punta di Casino, quindi una macchinetta così va bene, come seconda macchina sto dicendo io, come seconda macchina, capito, avanti Massimiliano. Già lo so, fare viaggi lunghi, una ora, macchina... ti dico che noi c'è una amica che c'ha la C1, l'anno scorso siamo andati, con mia figlia c'era una gara di ballo, siamo andati a Capoterra, questa ragazza è venuta con la C1, quindi sono le stesse macchine lì alla fine. Anche quando viaggi con una macchina più grande sei più rilassato, più macchina, va. La macchinetta che è molto economica, consuma pochissimo, paga poco l'assicurazione, cioè per città fanno bene, capito? Sì, no, sicuramente qui è molto leggera, è brillante, il motore è 1000, mi sembra che sia di cilindrata, motore abbastanza prestazionale per il peso, il rapporto peso-potenza ti dà un bel, leggerina, nel senso non ti chiede niente a livello di spazi, di cose, non niente da dire. Ok, quanto l'ha volata la 600 qua? L'ha volata 1300 più il passaggio, o 1200 o 1300 più il passaggio, una ragazza di Dittiri ce l'ha, un'ex collega di mia figlia, ed è contentissima, è nuova, poi il motore era a posto. Ti ricordi? Danilo mi aveva fatto anche i freni, tutte quelle cose lì. No, li ho data perfetta. No, la mia era 1100, quella 600 era 1100 SX, capito? Ci aveva tutti gli opzionali. Sì, sì, già me la ricordo. Ce ne abbiamo una C1 in officina a Massimiliano, e lo stesso se interessa qualcuno, diesel però quella, mi sono gastando 1000 euro. Ma che cosa? Scusa, non ti avevo sentito. Una C1 della Citroen, diesel, o forse no, scusa, C2, non C1, C2, diesel, 1000 euro la sta venendo, della nipote di mia cognata. Quanti chilometri ha? Ma mi sembra, non vorrei dirti una fesseria, intorno ai 180.000 km. Si può prendere, per 1000 euro si può prendere. Sì, chi è la moto, ma vai, cioè. La moto, la cercano, capito. Me la chiedo la moto se c'ho amici o vedo, fanno, capito. Va bene. Vediamo Gianni se è arrivato. Gianni? Sì, Gianni è già arrivato a casa. Ma qual è quella che c'hai dietro? È in buone condizioni quella macchina nuova. Ciao. Quella, vabbè, forse l'hai vista, dentro una verniciatura, diciamo discreta, dai, non è nuovissima, ma 1000 euro si può prendere, un diesel, poi mi sembra sia 1400 di motore, è un motore consuma nudo a me, cioè si può prendere una C2. E poi ce n'è un'altra, sempre ce l'hanno lasciata, ma un carraggio, questa la sta prendendo 1000 euro, una Ford Fiesta, sembra che sia del 2005 o 2006, adesso non me lo ricordo, ma vuole 1000 euro, ma è da lasciar perdere, li puoi dare 600-700 euro massimo, facciamo un po' di chilometri, quella è benzina però. Sì, già, me l'ho immaginato, là, stacca tutto e ci sentiamo da casa. Vai Massimiliano. Va bene. Ma io con la macchina devo fare video. Ma io adesso, ti ripeto, devo cambiare questa multipla. Io volevo prendere un primo, la verità. A me piace più quello. Finta una multipla. Se volevo in mano lo Fremont, c'era il mio vicino di casa, nero, gran bella macchina, anche quello c'ha un motore alfa. Quello è bello davvero, c'è 40 cavalli e 177 cavalli, a me piacciono le macchine grandi così, più al comodo, guarda, ho dei modi di fare un viaggio, guarda, capito qua. Ma il Fremont non è fuori strada, ha una bella macchina. Cioè non è rigida, non è... Io ci ho viaggiato un sacco di volte, molte volte andiamo a Italy con Nicola, con quella macchina è spettacolare, quella è una macchina sicura che ti permette di fare tante cose, ha un bel spazio, 7 posti, perché puoi aggiungere anche altri sedili, capito? È una bella macchina, sì, c'è il mio vicino di casa, qui più sopra di me, io sono al secondo, lui al terzo. Ed è nera, cioè opis a non finire, tutto dalla lavazzetta. Lui l'ha comprata a Modena ed è del, non mi ricordo se è del 2012 o 2014, una cosa del genere, ha pagato 9.000 euro. Sì, vanno su quelle cifre, no. Quindi poi cosa compri, che opis non c'ha e tante cose, no? La media del gruppo, tu già lo sai, a me la macchina perché mi serve grande, io lo so, veramente le scrivanie è di tutto buono, la garottella, lo so, il garraggio avanti Roberto. L'altro giorno è venuto che non l'avevo ancora vista la Hilux della Toyota, quello doppia cabina a cassonato, mi forse l'ha visto Claudio, una bestia enorme, grande, e non costa neanche molto, ho visto il prezzo, io pensavo costasse 40.000 euro, costa quella macchina full option con la telecamera, tutte le cose possibili e immaginabili, il navigatore 27.000 euro di ritiro, ma tu vedi quanto è bella questa macchina, enorme, grandissima, con roll bar dietro nel cassone cromato, tipo macchina americana, è uno spettacolo di macchina, c'ha uno spazio bellissimo. Il mio principale si è preso la ritirata l'altro giorno, si è preso il Mercedes, il SUV, il bar di 4 assi, il bar, tutto per parlare di macchina. Che cosa si è preso il Mercedes? Non mi ricordo, l'ultimo tipo, allora c'ha un cruscotto, cioè la connotazione del cruscotto è tutto touchscreen, pare un camion il bar. La Big Turbo, mi pare sia roba di 400 cavalli, una cosa del genere. Ma cos'è fuori strada? SUV stiamo parlando o vettura? SUV. Forse sono le GLA, ma cassonato o no? No, chiuso. L'ultima serie del SUV l'hanno fatto. No, già è bella, la Mercedes ha migliorato tanto, ne aveva uno bruttino squadrato davanti, il VEU, adesso sta cercando di imitare, se fa concorrenza alla Serie X, la BMW, all'X6 eccetera. L'altro giorno ho visto, che non aveva ancora visto, era neanche le targhe aveva, era infatti parcheggiato senza targhe, il quarto dell'Audi, è una cosa allucinante quanto è bella quella macchina. Sì. Non so cosa costi, però non era neanche matricolata perché era via Zaffarino parcheggiata senza targa. Siete lì sta macchina, era di quelle espositive. Soldi ci vogliono comprare quelle. Ho capito qual è Massimiliano, sì, si assomiglia molto all'X6 della BMW, però è superiore, molto più bella quella Massimiliano. Mi sembra che sia un 3500 o un 4000. Mi sembra che sia un 4700. Un 4007 diciamo che sia, è biturbo, senti che dicendo che c'è roba di 400 passacavalli, ma ricordo il caso, cioè, i cerchi sono da 22, fatto Dio vogliono, è una cosa impressionante. E via, vabbè, va. Prima c'aveva l'Audi, con la R6, una tarocchia a 280 cavalli, dice una macchinone. Vabbè. Loro hanno anche la possibilità di scaricare, di fare, capito? Quindi è così. È così. No, stiamo parlando già di macchine d'alto livello, quando parli di Mercedes, Audi, BMW. Siamo ad alto livello, anche le vecchie serie come l'ML sono sempre bellissime macchine. Tipo fuoristrada, così tipo il Fremont, quelle lì sono sempre di grande categoria, di grande prestigio, di grande prestazioni, sono già passate, quindi immaginate quelle che stanno facendo adesso. Oh signori, un attimino. Vai. Vi devo lasciare, dai. Ci sentiamo male domani, poi tra sei parti ti prendi quel codice, dai. Ciao Massimiliano, ciao Claudio, ciao Doppio Rum, ciao Luca Flipper, Luca del Monte e eventuali amici qua in ascolto. Io devo andare via, correti da parte mia, ciao. Ciao, vabbè, ci sentiamo, vai. Buon correttivo, buon tutto. Ciao Roberto, ciao. Quel messaggio che mi hai mandato Massimiliano è preciso identico al mio, cambia solo il nome. Aspetta un attimo, qua, un attimino solo. Kappa. Ha letto? Ma con il microfono che ti ho mandato qua. Sì, bello. Kappa. Va bene. No, volevo mandartene uno io, aspetta che te lo giro, così ti rendi conto. Sì, uguale, eh. Aspetta un secondo, eccolo qua. Guarda, te lo sto mandando, Massimiliano. Eccolo qui, Massimiliano Bulldozer. Eccolo qua, te l'ho mandato. Guarda, cambia solo la sigla, guarda. Sì, più o meno è uguale a quello che ho io, va. Una sigla diversa, però più o meno uguale, va. Sì, c'è giù ancora il prezzo attaccato. Orgia. Vabbè, va. Flipper, finì guai. Mi fa salvare in mano, ecco. Dai, se lo faccio a fare di bicio, dai, almeno toglie quell'adattatore che gli ho dato, che effettivamente è brutto sto cavo così volante, ma gli ho dato per provare, per rendersi conto la differenza che c'è tra un microfono e l'altro. Però se si fa la connessione e lo mette in diretto sicuramente va meglio, perché quello è per lui. Stamattina abbiamo fatto le prove, ma ero in fretta e non gli ho dato molto retta, però è così. Così è, sì. Ascolta, così il mio segnale com'è? Sempre buono, sì, ottimo per la truppa. 9:20 pieno. Cappa di Rogero, già va bene. Sì, a Vugliere va bene, claro. Sono per i porci e per i maiali. Allora, non ci vuole una grande radio per fare segnale, ci vuole una grande antenna. Cappa già. Ascolta, invece quell'attrezzo che hai ordinato tu, quando arriva, a che livello è? Ma credo che domani, credo. Allora come il mio, perché mi sa che è stato spedito uguale, più o meno. Aspetta che leggo qua. No, Massimino. A posto, va. Penso che, vabbè, è ancora 100 Sardegna, buh. Cazzo di Dio, per un prezzo, buh. Da Cagliari, Vibone di più, proprio siamo degli handicappati. Ci vuole arrivare più un pezzo a Cagliari, un pezzo di ricambio, che ordinare una radio, cazzo, da Taranto. Ma dimmi, Ducas, buh. Ecco, ok, avevo registrato. E così è qua, più o meno. Non si può, e anche perché è un pacco piccolino, ha finito con la posta e sabato la posta non lavorano, capito? Non fa il brecco qua. Avanti, brecco. Ciao Claudio, ciao Massimiliano, un rapporto di segnale me lo date per cortesia? Allora, qua sei 9 più 15, radio 5. Ok, Massimiliano, da te? Ma qua sei 7, ma siete già meglio antenne, sei di un'ora. Ah, sto provando un'antenna, ecco, non metto nel proprio... Un'antenna da mettere sul tetto, dai. Ah, va bene, sì, Santiago 7, a picchi positivi. Vabbè, ma c'ero nel terrazzo adesso, perché qua in terra, la devo mettere sul tetto. Mettila sul tetto, mettila sul tetto. Se fai un po' di qua, fai la cena, non ti intendo, non altro, tanto usato, se no. Mica io a volte quelli di Sassari non li sento, lì. Se ci sono segnali di propagazione 9.30 non li sento quelli di Sassari. Lo so, è così. No, 9.10 non picchia 9.15, cifra, già va bene qua. No, ho preso un'antenna stamattina nuova, da un amico che me la doveva piazzare, perché me l'ha piazzata e praticamente me l'ha fatta dare a buon prezzo e... Ora piazzo qua. Una tabula. Eh? Cos'è la bura? No, negativo. Ma vero, meno su un bale di scia. Si può fare comunque con i radiali e tutto, eh? Sono provato a qua, con la terrazza, poi già fare un giro di giugno, là. Ma cos'è? Quella che c'ha quei radialini, non lo so, 30 centimetri fatti tipo formaliesse. Fatta. Quella che c'è, radiali piccolini da 20 centimetri o 30 centimetri. Non la farla sai, gli sono che si muore vento, poi eh. Ecco, Massimiliano, andiamo a tirare rampa, in un finale, me ne dico un'altra. Già andava a vetro di Giulio, va. Non è che tu ci prendi tanti soldi, anche. Vabbè, adesso provi tu, io monto a questa, poi più in là si vede, è qua. Basta, va bene, va bene, attenzione, va bene. Se la metti sul tetto, fatti il conto adesso, qua da me sei 7, già mettendola sul tetto minimo sei 9.15 o 9.20. Infatti, è quello. Già va bene. L'importante è la radio che sia buona. Qua minimo minimo stesso vai col segnale che avevi prima. Ma in via lì a casa tua sei lì? Cazzo, qua la devo piazzare qua in settimana, questo sul tetto perché ho piazzato già l'estate. È leggera, mi pesa 2,5 kg. Ehi, vai Massimi. Ehi, qua, ma comunque questo antenne stanno andando molto bene, questa che sta parlando lui, il pochettone rimane fragilino un pochettino, tipo la Ringo, come tipo di alluminio. E c'ha tre radialini, pare la X30 qua, la 50. Sono 30 centimetri e sono fatti a forma ABS, capito? E lì, a una 50 anni, vanno bene come antenne. E mai questa 40 euro nuova, 45. 58 euro nuova costa. Io l'ho presa a metà prezzo, 30 euro, da un amico. Nuova nuova, ma non c'è neanche il caso. No. Ehi, no, non me la posso permettere di spendere tanti soldi, anche perché, cazzo, mi ho pagato l'assicurazione 260 euro. E il telefono, è chiuso, non è fatto fare il passo da gigante. Adesso provvisorio ho fatto così. Poi, magari in seguito, vado un po'. Aspetta che metto il guinzaglio al cane, che arriva a te l'aria, così lo porta. Un secondo, riprendi, Massimo. Va bene. Fa così, già va bene, a Puglia. Lavato, basta la piazza giù in campagna, si arrivi, a Puglia, va bene. Come fai le chiacchiere in città, ce ne sono i maiali. No, questa la piazza qua, Massimiliano, in campagna lascio quella bumera. La sollevo un po' di più e già va bene. Per faccio una chiacchierata, non mi prendo più di là, Massimiliano, ho buttato frutti qua. Andiamo, va. Lavato, ma se non ti serve dalla mente, me la piazza lì. Aspetta che trovo il magno, questo è il 680, devo trovare quel magno dove arrivo. Magno, io attaccalo. Vabbè, lui, ripreso, è finito. Ciao, eccomi qua, che stavo mettendo il guinzaglio a Filippo, così lo porta l'aria. Ehi, che Franco sta attaccando un magno. Attenzione, ci romagna. Guarda, guarda. Luca, Luca. Luca, uno non riprende, l'altro Luca. Uno sta saldando, l'altro ha detto che sacco, quindi va bene così. Cosa stavo dicendo, Massimiliano? Quindi va bene questo attacco, no? Ottimo. Sì, sì, va bene, hai la voglia. Te l'ha già detto, poi te l'ho detto. Quello lì, ma è quello che mi ha mandato le due foto che lo stava vendendo uno 120 e poi ha detto che voleva trattare, quello lì l'ha venduto. No, quello non l'ha venduto, quello vuole 100 euro più la spedizione. No, ma era 80 spedita la buona, peccato, se no avrei preso un altro. Claudio! Luia! Guarda adesso, c'è il PL mollato, non me l'hai raccolto, non è che sta arrivando. È la massa di Nevaria, 9.20 sì adesso. Ma se vediamo, guarda a te, 1, 2, 3, 4 e 5. Quasi 9. Certo, ce l'ho fuori dal terrazzo, qua. Dov'è la moto? Se ce la faccio, ce la butto sul tetto. Cazzo fa, 9 più 20 sì. Cazzo, 9 e 10 si è baciata 9 e 20. A me va, mi viene di giro. Ma è possibile un piede staccato, da 7 si è passato a 9, da Massimiliano. Ehi, Acla, c'è il piede mollato, capito? L'ho piazzata adesso proprio su io, è arrombata al balcone del terrazzo. L'ho fatto uscire un po' su di stilo centrale, in realtà il piano di massa è tutto in terra. Massimiliano, a lui due a Franco. Ma è un favoraggio, ma non vuoi favoraggio. Sono dei grilli. Secondo me attacca il legnare. Dai, c'ho 747 attaccato, guarda adesso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, fra delle varie, si scese 9, 9, 10, scarso. Brecchete, brecchete, brecchete, brecchete. Come parlate? Beh, Gianni, Ehi, ciao, fra. Vabbè, dello Smitter, Gianni, se ti si inciova. Prova a vedere. Prova a modulare. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sì, ma tu sei sempre lo stesso segnale, qua arrivi a bomba, telefono. Sto facendo meccanica stasera, ho cambiato una pappa di freni a un amico, che il meccanico non gliela ha voluta fare e mi è toccato un bambino io, vabbè già mi ha pagato, non mi ha fatto nulla. Allora, giù, beh. Ma ci credi? Se non vi credi. Io faccio anche meccanica, cosa ti chiedi Massimiliano? È bravo anche meccanico, si imbrutta troppo ma già è bravo, vai chiama Gianni, vai! Vai vai, cosa hai detto Massimiliano? Ma ho detto un favoraggio che ho fatto poco fa, capito, barantella, maravetto. Allora, staccato 747, capito, ti va via il staccato, momento che io faccio un mucco di maschio. Non lo conosco a Franco, mi fate poco esperimenti. Siamo già trattenti, cosa fendi. No, non la conosco quell'antenna Massimiliano. Mi sembra che me l'hai già fatta vedere tu una volta, c'è radiali piccoli come l'XC300, una cosa come quelle della Daimon VU. Quale, la vedo? Eia! Sembra una radio, sembra un'antenna di VHF. Infatti Massimiliano mi ha detto così. Però esce bene. È bella mia, leggera leggera, una 5 quasi class. Cioè i radiolini sono 30 cm, sono fatti una tipo forma di S. Tipo svastica. Bravo già. Quella è quella che sto usando Franco Califfo. Ehi, sì, sì. Poi mi aspetta un secondo, mi sta chiamando. Ehi, già siamo qua, vai rispondi. Non me l'hai fatta vedere tu. Mi sembra che me l'hai fatta vedere tu, Massimiliano. Però no, non la conosco bene bene, dai. È un'alternativa ad altre cose, se uno c'ha poco spazio, è buonissima. Due chiacchiere si possono sempre fare, no? Sì, quella che fa di più di due chiacchiere, ascolta il messaggio. Aspetta. Poi vediamo se Luca Flippe vuole riprendere, se ha finito di saltare. Sì, tanto io ho dato un po' di passaggini, altri 10 minuti e poi vado che voglio fare due bavettine ai frutti di mare. Cosa c'è stanotte la massa di Nevaria? Due bavettine ai frutti di mare. Hai capito. Io c'ho invece, no, la pasta abbiamo mangiato a pranzo. che l'aria è entrata alle 2, quindi di rana ci abbiamo fatto una bella pasta asciutta, prosciugo, aglio, olio, cipolla, peperoncino, eccetera. Stanotte c'è cotoletta alla milanese, pure le patate fritte. No, allora Franco dice ce l'ho fatto il riso allo zafferà. Ah, che noi il riso lo mangiamo un bel, a io piace un bel. Gappa gappa. Ehi, di quello, Ehi, attento Flippe, ce l'hai fatta a finire questo microfono, che sto barisciando un caterpillar. Facendo ancora, stai già ascoltando comunque. Ah, che bello che sei, col pro. Canotte sul microfono, è schiappo. Insomma, Antonio è entrato a buon pugno. Quindi Massimi, due bavette stanotte, proprio due bavette. Sì, due bavette, due bavettine, ci metto un po' di roba di mare dentro, ne faccio un pochino in più così me la porto anche domani a pranzo. Buone, sì, sono buone anche fredde, ho il termos, c'hai? Allora, mi porto, c'ho il pigiattino che attacco al salvatore, no, a 24. Ah, te la tiene calda? Beh, l'attacco più o meno un tre quarti d'ora prima e me la tiene calda la roba. Se l'attacco più di tre quarti d'ora non fa bubone in bocca, ti brucia. Ah, addirittura. Ma tu mi ricordo, mi hai detto anche che c'hai il frigo per l'estate, per mai mettere l'acqua, no? Sì, c'ho anche quello. Il pigiattino. Mi hanno inventato. Mamma lo via che c'è un rotondo che si chiudeva ermeticamente, si aggazzava da sotto quando facevo cantiere. Per le polpette, i gnocchetti, allora è sempre tutto freddo, non veniva di riscaldamento allora. Ma qua ce li ho anche io quelli tondi, ci ha dato nel gasotto, poi ne un altro modello, di quelli tondi, che mettevi l'acqua e te lo teneva caldo, ma caldo alla fine non più di tanto. Invece questo qua io l'ho preso da Amazon, capito? Ho pagato 29 euro. Tutto l'acciaio all'interno, il coso, il pigiattino, e poi dentro questa parte d'acciaio c'ha un altro affarino in plastica con due divisori che si mettono, si accade da una parte e la parte dall'altra, capito? Oppure fai tutto un piatto, come scrivi tu. C'ha la presa che lo puoi agganciare alla presa elettrica di casa, oppure sotto hai l'ingresso, attacchi lì e te lo attacchi all'accendisigari. Funziona sia a 12 che a 24. Vabbè, ma io ti sto facendo l'esempio, ma adesso ci sono tutte le cose praticamente di ultima generazione, quando mai che avevamo i frighi da mettere nella macchina a 12 o a 24, nei camion eccetera, i pigiattini riscaldati, ma quando mai, tu gioco di zene, cazzo, quando giravo gli gnocchetti a sugo e facevo cantieri, cazzo, variavo un ammasso di cemento. Anche io prima era così, infatti mi portavo sempre roba, diciamo, non da scaldare, ecco, roba fredda, tipo insalate, mozzarella, viuste con le cipolle, li puoi mangiare così, diciamo, tipico, guarda. Però d'inverno quando ti mangi un po' di roba calda fa anche piacere, capito? No, vabbè, noi abbiamo il container, dentro abbiamo il fornellino, una cucinetta, cioè possiamo scaldarci una cosa, no? Si conferma, è proprio così. Beh, la cosa che piaceva molto a me erano i polpette al sugo, anche fredde, oppure fritte, le cotolette, capito, tutta quella roba lì, però ci voleva anche la pasta, quindi mamma faceva gli gnocchetti e mi dava il barattolino, cioè di quelli della plasma, no? Con un pochettino di sugo chiuso, io glielo aggiungevo, lo giravo, diventava un pochino più maneggevole la cosa, se no era una bredda, la pasta asciutta fredda, e così si mangiava. Allora non si vedeva, non dava per esempio i ghiaccioli, per il frigo, la borsa frigo, come abbiamo sempre. l'acqua la mettevi lì, il boccettino di tre quartini di vino, la cura gasosa. Adesso ci sono tutte le cose a poter fare le trasferte, ma prima non era nuda Massimiliano. No, lo so, ma mi stavo controllando questa spedizione. Poi di giugno arriva, arriva anche quella cosa là, da Giappone. Oh, bene. Quindi puoi già avvisare al tipo, la prossima settimana dovrebbe arrivare. Quindi lo avviso che ti interessi pronto con i soldi. Quindi allora, usami la frutti qua, non mi interessa a me, la usare, la provi, non la proviamo assieme, il problema non ce l'è. Per cui guardiamo, tanto non mi interessa a me. Non vedi, già arriva. Boh. Quello appena arriva fai come fai sempre, già scendo a prendermela io se tu non ci sei. Ma la porto qua, la provo, lo chiamo, arriva di là e si tira a bocca. Sì. Va bene. No, non ne voglio, datelo, non mi voglio più. No, lascia perdere, sei già arrivato. Sei già arrivato, va bene così e devi essere contento di quello che hai, perché intanto poi, quando ci sono problemi, glielo vedi, io mi ho spedito un 430, vabbè che funzionante, perfetto, eccetera, però con mille difetti, trottate. È chiaro che va mandato al centro assistenza per fare una bella revisione e basta, capito? Si conferma. E beh, Luca, lì è finito, hai di saldare questa roba? Così ancora con un guacciavite in mano. Ma hai preso, vedi, hai fatto già quello che hai detto a Messi, meno per regalarmi. Eia, tranquillo. Perché per me se non mi dà quei soldi non esce da qua. Sì, no, a quel prezzo, qua, tanto non mi interessa, capito? Poi già lo sai. Alla Cisa già lo sai, non ti preoccupare, tu appena arrivi mi avvisi, appena arriva io faccio un salto e me la prendo, a meno che non arrivi magari di venerdì, capito? Allora scommetto se la stessa prendi tu su e me la passi, se no già me la mangio io, la provo, lo chiamo, Jonathan, arrega la pila. Sì, me la dai in consegna martedì prossimo, capito? Ehi, ma più che bene allora. Aspetto, quando è lì lo chiamo e dico prepara la pila, come sta andando a prelevare, che sto testando la tua radio, vai a pigliarti da impressa. Ia, positivo. Vediamo un po' se Franco e compagnia bella, Gianni riprende. Stanno amoreggiando al telefono. Ah, Lucia, limonando? No, si dice limonando adesso, qua. Ah, limonando? Intonacando? meglio stanno intonacando. Uno con la valletta americana, l'altro con lo frattascio. Allora, io. Ascolta, sono stanco a provarlo, questo 3009, qua. Devo attaccare. Ma il 3009? Torno a mettere guida, no? Poi mi do la telefonata a Giulio Werner in Chivi, il mio vicino di casa, ma provando. Altrimenti che l'entro 30 in cuffie di un computer. Ah, vabbè, ma che c'è un po' di... spingi un po' di più all'altra, però mi sembra più selettiva questa. Oh. Qualche giorno te la salgo, insieme a quello grigio questa volta, capito? Così... conferma come va. Vabbè, c'è anche il rosmetro adesso, c'è anche il rosmetrino, è sempre quello tuo, mi ha fatto l'ultima proprio stamattina, me ne ho dimenticato una, adesso vai in Sintec 3104, 13 watt sta varando. Ma l'importante è bianca così? Allora, senza bicchi di modulazione, 13 watt, si muove per 13 watt, ho detto no, non pietà con l'OB300 me lo gribba, no, perché poi io mi dimentico, capito? Era l'unica che non avevo fatto, poi avrà 3 watt quella radio, perché già mi va, e poi c'ha 3-4 watt, 13 watt ci aveva. Ha giubilato subito e c'è il trimerino. Ha giubilato un a caso, mi ha avuto anche fortuna, tipo quelli a ingaggio, no? Ho provato a muoverlo, visto che si abbassava la potenza, però mi avevo già avuto trick e l'ho portato a 4 watt. Sì, sì, se vuoi io ti mando la foto dei trimmer del Galaxy, se la vuoi. Così c'è scritto anche in grado, è bella, eh? La bella foto c'ho. Quella mi serve, quella è eterna per me, Massimiliano. Ho fatto le regolazioni che mi hai detto tu, sia dello Smith, sia della potenza, eccetera. Però se c'è da fare qualche ritocchino ancora, almeno solo per mettere le mani, capito? Se ce l'hai del Galaxy, mandami tutto quello che hai che mi interessa. Ma non lo vedi che hai già fatto la tua, adesso senti il coso, va. È già arrivata. Babà. Bello che. Aia. Con chi ti vuoi di gugliare? Guarda, c'è anche. Se tu lo apri, c'è tutto, ti dice tutto, guarda. Smith, cosa c'è da regolare, lo Smith in AM, FM, guarda che bella, se te l'allarghi, oppala. Eh sì, già allargatelo. Io mi sa che me lo volte, se ringrazio un al computer, me la stampo e mi faccio il quadretto pure, almeno ce l'ho nella carta, non si sa mai, bellissimo, anche perché c'ha tutto scritto, tutti i colori, arancione, rosso, verde, viola, vedi, con questa puoi fare una regolazione, con questa sì, bellissima, bella grande, sì, grazie Massimi. Questa mi sa che porto il telefono domani dal cognato di Roberto, qualche altra libreria, e me lo faccio stampare proprio. Me lo faccio con lo scanner e me lo faccio stampare. Ma poi è bello perché c'è scritto tutto, visto? Proprio tutto, tutto c'è. Sì, proprio completa. Vuoi agire su un trimmerino per dire dell'RF gain, e c'è scritto la regolazione, la misurazione, quanto lo devi, guarda, tutto, poi è tutto scritto, non è solo il trimmer, proprio c'è il trimmer con cosa serve, l'altro trimmer a cosa serve, va, gli integrati perché cosa sono, qua, resistenze, tutto c'è. 10 euro. 10 euro? In natura? O così i soldi di voi? Metà, va. Va bene, però sabato e domenica, perché gli altri giorni sono allergico. Vabbè, un po' di sabato, un po' di domenica, ma perché siamo in zona gialla adesso. Vabbè, ma io non so cucinare. Sì, non è gialla. Sì, torniamo in arancione e poi ti faccio il regalino. Cappa del Roger, vabbè, no, questa era una cosa, perché me l'ha mandato Gianni, però una foto di carta, era anche scritto male, non si vedeva bene, che gli aveva dettato Giulio, e lui l'ha scritto così impressa, questa è veramente completa, va bene. Cappa brioche, va bene, va bene, vabbè, io le sapevo già cosa c'era dentro, ma comunque, è sempre meglio averli, perché a volte ti dimentichi, no? Basta guardare, ce l'hai. No, poi questo è oramai la mia radio primaria, radio baracchino primario, insieme anche agli altri, però questo è quello che oramai, vabbè, miro alla tastierania, avviso solo due MC60, un MC50 e lì fermi da una parte, radio non viene più, manco una. E se non detto cosa devi fare qua? Una sola di scrivania. Sì, beh, adesso che ho dato anche gli altri K, quella la smonto. Mi tengo solo questa base qua, con dati, il Galaxy, 574 e l'Inuit, gli altri do via tutti, non faccio niente, tanto. Ho visto per fare due chiacchiere, questa è una signora radio, sono contentissimo e va bene così, Massimiliano. Cipito alla grande. Posso dare una dritta, cosa puoi fare con quell'altra base, quella che hai aggiunto, quella AL, non stare portandola su o giù, ti compri i piedi, quelli pieghevoli, tipo tavolo lì, hai capito, devi rivolgere la bricola, con la cerniera, lo avvito con l'avvitatore, quando devi fare qualche lavoretto, quello lo metti a fianco all'armadio, aspetti poco poco l'armadio e ci metti a fianco vicino al muro. Quando devi fare qualche lavoretto, sta, apri i piedi e va la manca bronca. Io devo chiudere che sta. A me mi è arrivata l'aria proprio 5 minuti fa, ho messo il guinzaglio, l'ho portato giù lì, dai. Vai, vai a portare il cane, già siamo qua con Massimiliano, c'è anche Luca all'ascolto. E cos'è? Chi sei Luca Flippermi con chi c'è il microfono? No, c'è il Giulio. Ora, ora, ora. Ehi, questo è Gianni. Tu eri già? Sì. Sì, cosa stai usando? Il garage con la... aspetta, che cosa non ti vuoi dire? Il pipì c'è, guarda, come va? Sì, già c'è, va bene, corsa delta? No, lo sto usando col coso, con la statica, sono andato per cambiarmi il cavo oggi, sono andato da... Il bip che sta andando male? No, già, è un microfono che ha dato un segno di pazzia. Aspetta. No, è l'altro già, mamma mia, mettili l'altro, cazzo. Ma qua, stai un attimino la porta inserita, tu. Fai batteria? Batteria? Boh, non mi sono fatto poco. Ha dato un paio di cenni, sai, quando c'è la batteria carica, così. Oh, aspetta che abbasso invece la potenza. Se vuoi fare con la modulazione che campa. Guarda che ho abbassato la potenza, Massimiliano. Va bene. Ok, lì ho domattissimo. Eia, Don Fino. Adesso Massimiliano si ascolti questa piccola modulazione dalla città di Sassari, cambio... Già l'accorto, sì, va bene. Ti ho dato il segnale Massimiliano, ma sempre lo stesso, la modulazione sicuramente è più alta. Diciamo che è lo stesso più o meno, dai. Poco di meno, ma niente di particolare. Ti sto guardando dall'altro giorno, ogni tanto, Clau, c'hai qualche picco negativo. Se fischio sì, Massimiliano. Sono a fare delle regolazioni in questa radio. Hanno tirato sicuramente molto l'LC. Perché guarda, mentre sto parlando, non lo fa. Guarda se fischio. E io sceglio positivi, Sì, ma lo fa anche parlando a volte. Perché si aumenta la tonalità del microfono, capito, della voce, lo fa. Non lo so, devo vedere i parametri dell'LC cosa hanno combinato, perché spinge un bel questa radio, mica ce l'ho 1,5 il mio microfono, Massimiliano. Va bene, vai già. No, ti ho detto un fruscio, sì. Vai, Franco Marroso. Ma non si andrà a tenere, Franco? Tu mangio, che c'è gelato. Ah, ma cos'è, cornetto o pinguino? Buono, dunque, vai. Gaffa. Vai già, riprova. Ma io ho capito, cosa gli è successo a Gianni? Ha cambiato il capo, così è? Non ho capito, ha iniziato a fischiare il microfono, ho capito cosa ha fatto. Franco, ci sei? Luca? Quasi da abbassare da due giri, mi sembra, lo hai io. Ma sei rientrato, Filippo non si può toccare, ghiacciato. Speriamo che non piova, cara, perché aveva messo acqua. No, mi sembra che domani acqua non ne abbia dato, non lo so. Però una settimana piove forte. Oggi doveva piovere, ad esempio. Io stamattina mi sono alzato, stava piovigginando. Poi ha smesso ed è rimasta tutta la giornata così. La giornata è rimasta così. Vediamo un po' come sto scendendo adesso. 3, prova. Adesso sto facendo bene già. Questo è il 3009 con il microfono normale. Aspetta che dopo ok, va. se l'acqua l'aveva data qua questa notte, poi domani non li ha dato, ma mercoledì ha messo un bel po' di acqua per mercoledì. Vedaria che mi tende a Filippo, no? Giocando con Berillo sta. Cazzo, è un bulldog inglese maschio, ciccione, ma ciccione un po' più. Li passa sotto a Filippo, dica, guarda anche gocchi gocchi. Ma perché così alto il suo? Perché il mio è nato alto. Ma scusa, è un gattino, lo volete piccolino da mettere dentro casa? Un gattino? A giocare Filippo? Sai come ce l'ha? Guarda, ne sono nati due, li hanno... forse una decina di giorni neanche, hanno aperto gli occhi, ma sono troppo curiosi, un maschio e una femmina. Massimiliano, so che cosa hai piccato, mi cazzo, con l'ugano e tu mi vuoi dare pure la iatta, usciamo che stavolta metti fuori davvero la vacca. Poi l'aria è allergica per il gatto, ce l'avevamo, noi avevamo una, un coso, un gatto persiano, capito, incrociato con una serranda, comunque era molto bello, peloso, l'abbiamo dovuto lavare, una volta mio fratello. Vabbè, cosa c'entra? Romero si può rasare. La macchinetta va a zero, e basta la metà, e lo lascia a pelle viva. Ah, io poverino, ma se mai le posso fare la cresta in alto, lo raso, le faccio la cresta del cuore scimmia. Ma perché non ci sono i gatti quelli sotto a pelo? Non li ho mai visti, il gatto me lo so fare. Ehi, è tipo Certosino, sì. Sì, li conosco. Non mi piace, ma il gatto mi piace, mi tipo quello che aveva Gianni. Un bel bello quello di Gianni. Quello che aveva nello Magattia e Isidoro. Sugar, ma è un cane. Quanto era biruccio. Mi piace il gatto d'angolo, il gatto persiano. Mi piace il gatto che si vede bello pieno di pelo. Cosa cazzo rasato me lo dai. Ucci. Ehi, già. Vai già. Vabbè già, fai un cavalino, vai. Il BP del Cobra. È bello particolare. Fa B. Ma non entra, bello. Se deve andare a portare il cane, che ha detto che sarebbe scendere un cane. Ma cosa vuoi che ti dica? Ma è califfo, vabbè. Sarà succedere un califfo. Cazzo, ma ha visto là quel video di quella radio che c'avevo, cazzo? Ah, Claudio, mamma mia, come sto, non vedo mai niente di male. Vai già, vai. Non mi sta fischiando, non lo so perché, non lo so perché fischia. C'è il parlascolta, cosa c'hai acceso? Ah, c'ho la cassa. No, la cassa, non ce ne vuoi cassa lì, che cassa. Stacca l'altro parlante esterno, cosa cassa? A Ugo per buona a cassa, che a cassa? Sono alla ricezione, sono radio che parlo una caffè in miniatura. Sì, caro Massimino, così è, la realtà è in definitiva è così. No, ti stavo dicendo, quel video che ti ho mandato di quella carica, dove ha messo il sugar? Ragarella, raga. Ma io ti ho anche risposto stamattina quando mi ha mandato il video. Beh, ricordi anche perché l'ho provata io. Questa biumana, allora io l'avevo messa sopra il DAC, mi ricordo, era più grande del DAC. Ehi, ascolta, ricordami il microfono di linea che c'avevo, così com'era, qua, lo ricordi? Era l'MD, no, l'MD1B8 mi pare, o C8. O D8, senza niente, MD8, può essere. Si chiama Iaesu MD1B8, è quello normale, l'MD1C8 è quello che c'ha il tastino sotto come il 60. No, non veniva che il tastino, tanto lo ricordi che questo spingeva molto in banda laterale, invece la MC aveva una modulazione un po' più classica. No, avanti già. Ma che sta facendo così quella radio già? Togli la colonnina, ti ho detto, togli la colonnina, stacca il jack della colonnina e chiudi il parascolta. Ma cosa si trattene? Il microfono amplificato? No, già, no. Se usi il microfono preamplificato, togli la colonnina e abbassa il parascolta, tutto a zero. Io quel tipo di radio lì la usavo con il Tannen più 3 ed funziona benissimo. Però devi regolarlo basso, se non mettere colonnina parascolta chiuso. Radio fischia solo qua, negli altri canali non fischia. Cazzo, canale 10 sfigato, cambiamo canale già. Prova a mettere 13. Vai a 13 Massimi. Prova già. Cazzo, io cazzo già ne devo fare la medicina di luci, ma non è possibile. cioè stiamo cambiando canale, ma non è possibile. Come può essere questa cosa, Cla? Cioè, la frequenza cosa cambia, cosa c'entra? Può cambiare, Massimiliano, un'armonica magari più alta, come ti abbassi di frequenza. Può essere, cazzo, ma roba da matti. Vai, altri dici ciao, ciao e ti dichi. A te, tu prova a portare tutto a zero prima o già. Prova, adesso non è fischiato. Bassetta, prova canale 9 già. Hola, allucinante. Cazzo, una cosa pazzesca. Io quello che sento da già, amico, veramente. Allucinante, cioè stiamo cambiando canale, allucinante. Ascolta già, fai una cosa, spegnilo del tutto. Ok, tu porta però tutto a zero, anche il volume del farlo ascolta, portalo tutto a zero e poi spegnilo e fai un passaggio. Dai, vabbè. E lasciamo la regola, fischia lo spegno. No, ti ho detto, spegnilo del tutto un attimo. Poi si sta spento, va. Ma stai fischiando lo stesso. Abbassa leggermente il microfono, magari è troppo alto il microfono. Prova, guarda, 1, 2, 3, mi nomi. Ora sei riuscito a regolarlo, va. Ora, 1, 2, 3, va bene così. Allora, adesso non stai fischiando, forse era troppo alto il microfono. E può darci. Già, cazzo può darci, usci e... No, va bene, va bene, questa è la regolazione sua. Cos'è, saletta? Eia. Ma io ho abbassato il coso, ho abbassato il mic game. No, il microfono devi abbassare, non il mic game. A quanto ce l'hai il mic game? Te lo dico io perché l'ho provata. Boh, interessate che vada bene, aspetta. Così dovrebbe andare bene, no? Proviamo a vedere che limite c'ha. Ora, ora, ora, ora, ora. Adesso comincia a fischiare, lo vedi? E meno di metà lo devo tenere, dai. Così lo devo tenere. Aspetta, scusa, scusa un attimino. Fammi capire il microfono come ce l'hai. Scusa, il microfono della radio, lascialo al massimo, regola il microfono, no? Prova, guarda, adesso sto regolando il microfono, guarda, 1, 2, 3, me sta cominciando a fischiare, guarda, ora, ora, guarda, così come si sente. No, no, Massimi, perdonaci. Perdonami Massimo, perché io mi ricordo Mickey Green meno di mezzogiorno e poi il Turner andava quasi a 3-4. Appunto, no, ma per che cosa? Per tenere l'eco inserito? No, senza eco. No, senza eco metto, il Mickey Green a manetta, nella radio, io sto parlando senza il parlascolto inserito, e il Turner... meno di metà. Ma l'eco inserito ce l'hai già? No. Lui sta innescando perché c'ha l'eco inserito. Già, controlla, ci avesse l'eco inserito allora. Aspetta che parlate in due, cosa già? L'eco è a zero. L'eco è a zero, però adesso tu il microfono a quanto ce l'hai? Il microfono sarà a 3. E il microfono della radio è a metà, così è? A meno di mezzogiorno è. Vedi Massimiliano, mi ricordavo io. A meno di mezzogiorno il Mickey Game della radio e il Turner lo tenevo alla seconda attacca, no? Che ce l'hai anche tu, la seconda attacca, c'è la prima attacca che lo zero, la seconda attacca. Siccome lui sta usando il saletta che spinge un bel, la regolazione è quella, deve tenere il Mickey Game meno di mezzogiorno e il saletta a metà. Adesso è così e sta fischiando lo stesso, tutto chiuso, Nike Game, tutto chiuso, fischia lo stesso, va. No, chiudere non lo puoi chiudere, mettilo a mezzogiorno, meno di mezzogiorno. Prova, guarda, così non fischia, ma devo tenere la radio bassa. Bassa? Cazzo bassa, ti ho detto che è bassa. C'è a uno la radio, a uno ce l'ho, e lo usavo a camanettore, cazzo fila, boh. Guarda adesso come va, sempre fischiando sta, no? Ora, ora, ora. Ma quando non fischia non è bassa la radio, no? Ascolta, fai una prova, scusa un attimo. Questa delta, abbassilo a 1 il microfono, abbassalo a 1. A 1 e senza eco, sta fischiando lo stesso. Quasi mira, così a 1. Uno che abbassiamo, c'è qualche rientro, può essere. Sì, dov'è il microfono? Vicino a qualche altra radio o all'alimentatore? No, è accanto alla radio che sto usando. No, staccalo, allontano il più possibile. Dove c'entra qua? Se negli altri canali non lo fa. È vero, anche quello è vero. Che strano, un bel strano. Qua io quella radio l'ho avuta, lo sai, e tenevo il Mickey Gain e meno di mezzogiorno, e il Turner più 3B uguale a questo, che c'era anche Massimiliano, praticamente al secondo puntino,